Tuoi parenti sono sembrati a volte i deregi evoluti. Avete un enorme sarchiappone lì come Walter Chiari, ma non si sa che cosa minchia c'è dentro. Allora, cioè, perché sei così? Perché sono uno stronzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. C'è niente sesso, sono l'ombra di me stesso, sono mai ridotto all'osso. Sesso, tutto intorno è sesso, la tua pelle in cartellone, tutto mondo in distorsione. Niente da inventare, niente da maledire. Che El Marug aveva fatto sesso con l'imputato e ne aveva ricevuto dei benefici. Ma che sia vita, che io schiavo non sia di una squallida idea. Lei mai, ha mai avuto rapporti con Ruby? Intento rapporti intimi con Ruby, perché è uno dei due reati che le contesta. Ma assolutamente no, mai. Ma non si potevano nemmeno avere una ragazza che si era presentata come portatrice di una storia terribile e che non induceva nessun sentimento diverso dalla commiserazione. E siamo ancora allo stesso punto. Ha fatto o no sesso con la signorina Ruby Rubacuori? 6 anni e interdizione perpetua dai pubblici uffici, come sapete. Perché è già stato fatto fesso, senza mai invecchiare con rimorso. E però in questa commedia che si dipana ormai da anni, il processo, commedia sexy. Il processo è anche una grande commedia. C'è lo scivolone della signora Boccassini, lo scivolone razzista della signora Boccassini. La Boccassini come Borghezio. Pensa se l'avesse detta Borghezio una frase del genere. Immagina se l'avesse detta Borghezio una frase di questo tipo. Cosa sarebbe accaduto? E invece adesso gaff, scivolone, tutti lapsus. A minimizzare. Sì, lapsus, bravo, lapsus. Lapsus. Ma come lapsus? Ma che era la lap dance, lapsus. È una cosa pazzesca, la furbizia orientale di quella gente, mi sembra che abbia detto una cosa di questo tipo, una furbizia orientale tipica di quel costume, di quella gente, sì. La minore extracomunitaria, persona, lo ripeto, intelligente, furba, di quella furbizia proprio orientale delle sue origini, riesce a sfruttare la propria essere extracomunitaria. La furbizia orientale delle sue origini. Ma tu ti rendi conto se l'avesse detta Borghezio una frase di questo tipo? Se l'avesse detta un altro? Dai, su, no, dai! La differenza è che magari Borghezio l'avrebbe colorita con qualche parolaccia. Questa è vabbè, forse ma la che c'entra? Quello fa il pubblico ministero. Però è vero, è un odioso stereotipo. È come dire appunto questa furbizia levantina, no? Pronta all'inganno. Questo è il senso di quella roba. Una scivolata, dai. Assolutamente sì, una scivolata di Hilda La Rossa. L'impianto accusatorio però mi pare gravissimo nell'insieme. Ma è l'accusa, gravissimo. È l'accusa. Devi imparare che è l'accusa. E allora basta. In base alle intercettazioni telefoniche, c'è tempo. Risulta che il Premier abbia fatto c'è tempo. C'è tempo, è roba vecchia. Cacciari versus Santanchè, sentite. Per discutere del governo e per discutere delle prospettive di governo, per discutere dell'IMU, delle riforme, dell'occupazione. Non delle serate bunga di Berlusconi, dai. Ma basta un leader così, in qualsiasi paese civile, lo sanno tutti, sarebbe stato massacrato. e non si sa neanche più se ne parlerebbe. Lasci perdere la boccassina e i processi, poteva lasci perdere la colpevolezza o meno dal punto di vista legale. Non un morto da fumare, può affidarsi al sesso. Vittorio? Eccolo! Ma dove diavolo sei? Dove eri? Macchina? A Cremona. Dopo un viaggio abbastanza lungo e aver lavorato per la mostra di Mattia Preti che inauguriamo per l'apertura del Salone del Libro. Conosci questo Mattia Preti? Vittorio? No, sì, Vittorio. Parenzo, conosci? Io conosco Mattia De Paoli che era un mio compagno del ginnasio. Ah, vabbè. Perché un conduttore televisivo dichiara di non conoscere Mattia Preti o anche radiofonico, questo me lo lasciamo aperto, questo è un problema, sarebbe come non conoscere Alfieri o non conoscere Boccaccio, insomma. Comunque non voglio polemizzare con Parenzo, anche perché ho sentito Cacciari che probabilmente ignorerà, non diversamente da Parenzo, anche lui Mattia Preti. No, ma non credo. No, ma non è fondamentale però conoscere Don Mattia Preti. Comunque, non credo che ignorerà, Dai, su, adesso qualche cosa. I musei del mondo hanno quadri di questo grande pittore. Ma qualcosa calabrese. Conoscerà. Il grande pittore calabrese. D'accordo. Ma... la sua origine calabrese lo esime dall'essere conosciuto da Parenzo, che è del nord. Ah, sì, di Padova. Senti un attimo, Vittorio, ma hai sentito questa cosa clamorosa della Boccassini? Per carità, poi c'è la requisitoria, ma sulla furbizia orientale della signora Rubi Rubacuori, che dici? Intanto partirei da un concetto, che la frase che ha detto Cacciari rispetto alla condizione di giudizio del popolo indipendente dal processo che riguarderebbe Berlusconi, mi fa chiedere per come sia possibile che lui abbia avuto rapporti con una donna che è stata con Berlusconi. Ma questo l'abbiamo già detto una volta, che c'entra? No, quindi dico, ma perché vale solo per Berlusconi? Qui continuiamo a pensare che allora solo Berlusconi ha scopato o non ha scopato, ha avuto rapporti, e gli altri? Cioè il reato o è un dato, il reato è però, o a querela di parte e non c'è, o perché esiste un reato che debba essere perseguito oggettivamente, che è quale? Però scusa, Cacciari non era presidente del Consiglio, eh? Sì, ma non è un reato per nessuno. No, ma lui dice Berlusconi in un altro paese sarebbe stato massacrato da un punto di vista del giudizio politico. Non è che lo vanno massacrato adesso, non è che io debba difendere Berlusconi, ma faccio un ragionamento tipicamente giuridico, cioè dico, il tema è che se si persegue qualcuno per il reato di prostituzione o quell'altra concussione, occorre che ci sia una parte lesa che sia riconosciuta tale almeno dall'accusa. E questo l'abbiamo detto più volte. Così, non è tanto la cosa, voi non avete osservato un fatto, che quando lei parla di furbizia levantina o orientale, ha detto per sfruttare, quindi è l'opposto di una vittima. Se il furto lo fa non un diciottenne ma un quindicenne, non è meno furto. Cioè, allora, tu... nella requisitoria c'è la consapevolezza da parte della Boccassini che esiste un defraudato ed è Berlusconi. Cioè, da tu una dici... che ha sfruttato e lo ha lei. Quindi se non avessero gli avvocati incapaci, Berlusconi sarebbe già assolto. Perché cioè che la parte lesa è Berlusconi, sta dicendo. Esatto, ma lo ha detto lei. Perché la furbizia, levantina per sfruttare la sua bellezza. Cioè, e cosa viene fuori da questo? Che il reato, come dico da mesi, è circonvenzione di attempato. Cioè se uno arriva lì e riesce a strappare non 1.000 euro ma 57.000 euro. No, ma che 57.000? Pare 4 milioni e mezzo secondo la Boccassini. No, ma a maggior ragione no, parlo di quello che abbiamo saputo, io non so nulla di quello. Secondo la Boccassini sono 4 milioni e mezzo di euro. Ancora peggio, questo furto o capacità di raggiro non può essere prostituzione, ma è mantenimento. Io mantengo chi mi pare, ma anche la persona più odiosa del mondo, se la trovo per strada, io Parenzo la porto a casa mia e comincio a dormire con lei, la mantengo. Però scusami Vittorio, la Boccassini dice che è provati i rapporti sessuali tra Ma i rapporti sessuali con una mantenuta sono assolutamente regolari, non è ma questa era minorenne però la minorenne puoi avere rapporti tu con come chiunque, dai 14 anni la minorenne consentiente può avere rapporti con chi vuole. Con chi non sapete però, niente. No, ma lo sappiamo, lo sappiamo. Allora, se il dato è questo, non c'è prostituzione. La prostituzione è come comprare un panino da un signore di cui non conosci il nome e il cognome, che non verrà a dormire a casa tua o a mangiare a casa tua. Però Boccassini dice che è provato che facesse pure la prostituta, ampiamente provato. E poi dopodiché dire? Ma certo, ma anche Ninetto Davoli o chiunque poteva fare la prostituta o il prostituto se gli diceva di farlo. Cioè tu neghi l'esistenza della prostituzione, la realtà è questa. La prostituzione è un dato subalterno al fatto che tu entri in un rapporto con qualcuno che decide di mantenere una prostituta. Ho capito. Quando tu dormi a casa di qualcuno, hai il suo telefono, vai da lui, vai a cena da lui, potevi anche essere una prostituta. Sì, Ma in realtà non lo sei più perché il rapporto è mutato. Tu perché... Parenzo ha scelto di sollevare dalla strada una ragazza e di portarla da lui. Sì. Io credo che mai requisitorio, a parte questo non parla l'italiano, è sgrammaticata, non sa quello che dice, e in uno stato civile non potrebbe esserci un giudice che ha un'incapacità totale sia di dire una cosa logica, ma non è una requisitoria corretta. Tu dici, ma è una cosa scandalosa, non parla italiano, è una cosa fondamentale. Non parla italiano, aspetta, non è un reato, non parla italiano, non costruisce la frase. Sì, quello è vero, ha un italiano un po' claudicante, questo è no, vero. è una donna, è una cosa che fa orrore, perché in realtà ha voluto combattere la sua battaglia contro un nemico attraverso la magistratura. Dovrebbe andare in galera lei, perché chi usa la funzione pubblica per una questione privata fa un abuso grave. Ma perché, perché si è fissata secondo te in questo modo? Perché ha trovato la strada buona. Sai, se anche tu mi vieni a dire che è stato con una minorenne, vuol dire che ha avuto grande fortuna, cioè si è creato il reato che non esiste. Non c'è una ragazza dei nostri tempi che non scopre prima dei 17 anni, non ce n'è una. Non è che adesso scompare un reato, sarebbe stato la Boccassini. Scompare non è reato, la libertà sessuale è una conquista che abbiamo fatto tutti. Sì. Tu dici consenziente. Abbiamo intenzione di decidere che la Boccassini stabilisca che c'è il reato di stare con Ruby, se lo sogna. Solo che naturalmente, siccome non c'è nessuno che racconta niente, in tribunale andranno a raccontare delle bubole. Ma perché tu dici che sono incapaci gli avvocati? Perché scusa, non abbiamo appena dimostrato che uno che dice che una donna usa la sua furbizia orientale... Vabbè, non può essere così semplice, però. È come un qualunque malvivente, uno scippatore, non è che è assolto perché scippa e non ha 18 anni ma 17. Sì. Il reato è scippare. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Quando il giorno scivola via, si svegliano per me. Quando tutto sembra... Sto parlando di comportamenti, quelli palesi, quelli dichiarati da Berlusconi medesimo, che aveva le ragazze in casa ad Arcore a fare le festicciole. Ma le pare che un leader politico si comporti così? Ma per carità, cosa vuoi che dicendo? Me ne frega a me della Boccassini o di quello che la Boccassini dice, se è colpevole o non colpevole, e del giudizio della magistratura? È giudizio morale, etico, culturale. Ma io sono in un paese civile, un premio non si comporta così, punto, e non ne parlo più, fine. In un paese civile un premier non si comporta così, a prescindere dalle inchieste della magistratura, tuona il professor Cacciari oggi. Beh, è vero. Vittorio. Ma che è vero, a parte che c'è un problema anche geografico. Cioè? Che cos'è l'Oriente? Il Marocco è un occidente, non sa neanche la geografia. Sì, lo so, ha sbagliato. Sì, ma non sa niente, un magistrato come la Boccassini è una vergogna per le istituzioni. A parte che dovremmo chiedersi cosa faceva suo zio, cosa faceva suo figlio, cosa faceva lei, cioè la dignità che cos'è? Cioè che c'è? Che dice Cacciari è che ci spieghi come mai per lui è dignitoso stare con una fidanzata di Berlusconi. Questo è il punto di partenza. Uno fa quel cazzo che vuole. Se poi il premier si sa che è un porco, non perché non è bello, ma perché lo intercetta la Boccassini, non è quello del premier. Però è a prescindere. Io lo conosco da 30 anni, non avrei neppure immaginato lo scenario meraviglioso di follia erotica che lo pervade. Però mica l'ho saputo perché me l'ha detto lui, a me lui non diceva mai niente. Beh, qualche ragazza prima delle intercettazioni, qualche ragazza aveva iniziato a parlare. Non erano comunque quelle, se c'è una cosa per cui Berlusconi è indegno, sono i ministri, i deputati, cioè quelle cose, cioè non si dà un'indegnità sessuale per nessuno, è un'altra forma di razzismo. Non vale un cazzo Berlusconi, Cacciari vale anche meno di lui, cioè dal punto di vista politico Cacciari è una nullità assoluta. E oltretutto è anche uno che quando può scopare una ragazza la scopa, che non rompe i coglioni, non è per quello che è un incapace, è perché è un incapace totale nel cervello. Ma tu dici, Parenzo, dimmi che c'è. Che no, ma dico, ma come si fa a arrivare alla follia che pur di difendere le promiscuità del premier tira fuori quello che fa Cacciari nella sua vita privata, che mai le confonde con quella pubblica? Questo è il primo elemento. Il secondo, Sgarbi, come al solito, facendo il professore, cosa sono? Ma Sgarbi, ma si occupasse di Tiziano, del Mantegna, di tutte queste bellissime cose qui? Non sai chi sei, Parenzo, non sai nulla, non sai, sei una. Ma occupati sono del Tiziano, delle Morte, del Mantegna, credo con la Maia dello Zurigo. Il problema di fondo è che non si mette in discussione la vita sessuale di nessuno, che sia premier o che sia l'ultimo degli uomini. Ma però qui scusa, si è ipotizzato un reato che è l'induzione alla prostituzione minorile. Scusa, ma prima lo capisci o no che c'è una differenza? La prostituzione, no, in questo paese non è un reato, lo sai o no? Non c'è nessuna differenza. Scusami un attimo, Vittorio. No, che la prostituzione non è il reato, non è quello il punto, non è la prostituzione. Non c'è nessun reato da nessuna parte. Ma allora perché non indaghiamo su quello che fa sessualmente Crocetta? Non fa più niente? No, perché non cominciamo a intercettarlo per vedere cosa fa di notte Crocetta o Vendola? E dove se lo mettono? Ma non è quello, con quell'altro ancora. No. Il discorso è che c'entra, dai, su. Appunto, ma non è quello il punto. L'attività sessuale di Crocetta non c'entra, se quella di Berlusconi è ancora di meno. Però scusa un attimo, però perché noi sappiamo tutto grazie all'intercettazione di un magistrato che non è degno di fare quello che sta facendo. Ma anche per un po' di come dire, di leggerezza da parte di Berlusconi. Sì, ma guarda, la leggerezza ci sarà anche stata, ma la leggerezza non è ostentare quello che alla fine gli viene attribuito, come se dovesse raccontato qualcuno che stava con questo o con quella. Non l'ha mai raccontato nessuno. Tu dici, senza le intercettazioni non avremmo scoperto nulla. Appunto, e chi le ha fatte? Cioè, con i soldi miei, le ha fatti quella lì che non conosce la geografia, che non sa fare una requisitoria e che viene qui a sputtanare lo Stato italiano prendendo lo stipendio come magistrato. Ma perché, così? Perché tu hai detto bisogna sapere quello che fa il fratello, il figlio, il padre, non ho capito. E prova a fare delle indagini, non so, sulle questioni che riguardano la famiglia della Boccassini, così saprai dell'altro. Che viene fuori? Ma che ne so io non mi occupo mica della Boccassini. Insomma, hai detto quella roba là, bisognerebbe fare delle indagini sulla madre, su tutti, se fai indagini su tutti, sa cosa trovi. Ah, tu dici in generale, potresti trovare qualsiasi cosa. No, in generale, nello specifico vi dico, quando il figlio della Boccassini ha avuto dei problemi con la polizia, lo zio della Boccassini ha avuto problemi, guarda su Google zio della Boccassini. Ah, vabbè, e questo non vuol dire che noi dobbiamo preoccuparci di giudicare indegno qualcuno perché suo zio, suo figlio. Io dico semplicemente che basta quello che dice per capire che non può fare il magistrato, perché sta facendo la difesa di Berlusconi pensando di chiederne la condanna. La frase che ha detto è questa: una donna di furbizia orientale che voleva sfruttare la sua, e uno che sfrutta cosa fa? Usa un'arma contro un altro, per cui circonvenzione di attentato. Però, e d'altra parte, dare 57.000 euro e tanto più 4 milioni e mezzo a Rubi vuol dire essere completamente coglioni. Parenzo, dimmi, che è quello che tu ti rendi conto, perché è un coglione aver dato più di così. Questo mi pare evidente, ma non è per questo che lo vai anche a condannare, Cioè 4 milioni e mezzo, 4 milioni e mezzo. E dov'è la parte lesa? Cioè la parte lesa, se esiste una a parte la questione morale, ammettiamo che avesse ragione Parenzo o Cacciari, ma la parte lesa è qualcuna che deve, se quando aveva 17 anni Parenzo avesse trovato qualcuno che gli dava 57.000 euro, sarebbe stato parte lesa? Allora la parte lesa è qualcuno che lamenta un danno. Dov'è il danno? Chi l'ha fatto il danno a chi? Ho capito. Che danno ha avuto? Cioè, se dobbiamo svalutare oggettivamente il danno che ha patito questa povera ragazza abbandonata, che danno ha patito? Complimenti per la trasmissione. E il giorno che finisce questa trasmissione io posso pure morire, perché questa è la più grande trasmissione di tutti i tempi e non vi sto facendo una sviolinata. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray anti-zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. E balli su twist, e balli su twist. E lei? Lei è un precario? Io non più. Che contratto ha? Sono praticante. Di dove? Il Fatto Quotidiano. Ah, ma è praticante o precario? No. Quanto tempo è stato precario con il Fatto? Un anno e mezzo. Ah, è stato precario? No, ho fatto gavetta. Ah, precario? Con il Fatto Quotidiano. Con lei avrei avuto un contratto subito. Io ho fatto i contratti di lavoro, ho fatto emergere il sommerso. Lei è stato un precario del Fatto Quotidiano, è bene sapere. Capita anche. Auguri, questo. Auguri. Ma dove va? Brunetta. Avanti indietro. Certo, io vado a parlare con i miei elettori, con la mia gente. E lei, precario del Fatto Quotidiano. Mamma mia, che tristezza. E mi dia un lavoro lei, Brunetta. Ai, ai, ti ha beccato, ai, ai, ti ha beccato. Come ti stendi? Brunetta, mitico, sempre sul pezzo. Contro un giornalista, contro per modo di dire, del Fatto Quotidiano. Precario, che tristezza. Parenza, hai sentito o no? Precario di che giornale? Del Fatto? Ma che tristezza, no? Poi alla fine dice anche ciao Travaglio, ciao. Non hai mandato quel pezzo in cui saluta Travaglio? Sì, adesso lo mando. se ve lo condannano? Chi? Se Berlusconi dovesse essere condannato in Cassazione. Non c'è nessun problema. Lei è tranquillo, come gli dice? Tranquillissimo, tranquillissimo. E se così non fosse? E se condannano Travaglio? Vabbè, che succede? Non lo so. Neanch'io. Appunto, che problema c'è? Non casca il mondo, ma se non casca il mondo, ma non casca il mondo. Se condannano Travaglio, che problema c'è? Non lo so. Che problema c'è? Ciao Travaglio, auguri. Una soluzione auguri politica, una soluzione come? Politica, no. Come? Una soluzione politica. Assolutamente no, giustizia. Riforma della giustizia. Così si salva. Ma c'è il tempo per una riforma della giustizia. Assolutamente sì, i tempi per le riforme ci sono sempre. Una botta nel braccio e poi all'altro. Prendila. Titoli del TG3, andiamo. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Processo Rubi, la Boccassini chiede 6 anni e l'interdizione dai pubblici uffici per Berlusconi. Per i PM certi rapporti con la ragazza, la sentenza a fine giugno. Dura replica dell'ex premier, della Boccassini solo teoremi e falsità, ispirati dall'odio, e polemizza con le figlie di Enzo Tortora. Letta, al governo serve lealtà e franchezza, annuncia le priorità, legge elettorale e riforme, ma il PDL vuole prima le modifiche istituzionali. Venerdì decreti su IMU e cassa integrazione, poi interventi per il lavoro dei giovani. Saccomanni presenta a Bruxelles i piani su conti e crescita. Epifani, bene l'agenda sulle riforme, dare subito un segnale al paese sull'occupazione. Il neo segretario PD da Napolitano, D'Alema ospite del TG3. Genova, in un video delle telecamere del porto le immagini del crollo della torre mentre continuano le ricerche dell'ultimo disperso. È morto anche il giovane di 21 anni colpito sabato a Picconate dal ghanese Gabobbo a Milano. La famiglia ha consentito alla donazione degli organi. Beh, danzano come zanzare, queste ombre sulla strada. Il ghanese che ha ucciso 2 persone a Milano. Caro Parenzo, caro David. Lascia che... No, stai calmo. Allora, che sei caduto anche tu nella trappola del più bieco razzismo e qualunquismo in un tweet che hai fatto ieri sera. Innanzitutto non si sente un cazzo come al solito, di quello che dici ieri... non si sente una mazza, però lasciami parlare allora, siccome almeno la mia voce si sente. Clandestino, primo. Aspetta, clandestino è un dato di fatto, è entrato clandestinamente, sì o no? È entrato clandestinamente, sì o no? Sì, punto e basta. Beh, poi richiede asilo politico. Non glielo concedono, fa appello. Cosa incredibile. C'è l'appello pure quello sulla richiesta di asilo politico. Cioè, certo. Uno chiede asilo politico e ti dicono di no. Ma perché ci deve essere l'appello? Basta, non ti hanno concesso asilo politico. A casa. A che casa. Ma che non dire stupidaggine. È un paese dove a quando un clandestino entra dentro è impossibile cacciarlo fuori. Impossibile. Ma è la realtà. Perché non devi ammettere la realtà? Ma mamma mia cosa. Io non so. Mamma mia. Ma è vero. La tessera d'onore di qualche vabbè, ma tu sei il solito bonista di... No, bonista niente, sono le leggi italiane. Se non mi ma che vuol dire? Cambiate, ma sono fatte male. Sono fatte male. Ma la cosa grave che hai detto, e ora si sente perfettamente perché ho campo con 7. No, ma pallini, stai tranquillo che non si sente niente. Comunque, aspetta un attimo: clandestino chiede asilo politico, gli dicono di no, fa appello, cosa pazzesca. Perché uno, ti negano l'appello, via, a casa, si torna in Ghana. Aspetta, fa la rivolta in un carcere. Fa la rivolta, no, in un carcere, in un centro per i migranti. Fa la rivolta con i sassi alla polizia. Con i sassi alla polizia. Aspetta, poi tu non le sai queste cose. Vai in carcere a Lecce. Ma come? Vai, no, non le sai. Vai in carcere a Lecce per furto. Distrugge la televisione di un vicino di cella. Certo, un fatto minore, però a un certo punto impazzisce e distrugge la televisione di un vicino di cella. Non lo processano perché scadono i termini. Esce, scompare, ammazza la gente a picconate. Ora uno ha diritto a essere incazzato, sì o no? Uno ha diritto a essere incazzato con le leggi, non con quel disperato, con le leggi italiane che consentono che queste cose qui, i pazzi. Allora, il tuo amico Brunetta. Non si sente, fammi sentire Borghezio. Non si sente. Brunetta. Levatelo che non si sente. Fammi sentire Borghezio come è stato accolto la battaglia di Borghezio davanti alla che è andato in piazza, lì l'hanno attaccato un paio di persone. al Niguarda, signore, molto vicino abbia, abbia più buon gusto, sì, forse è la vittima del Niguarda, del clandestino di merda che ha fatto quello che ha fatto. Porti, porti alla famiglia delle persone uccise, ieri era figlio del vortice, questo è no, no, guardi, abbi pazienza. No, io dico, ma lei è un rappresentante della nostra politica, benissimo. Dovrebbe essere infatti, più educato. E lei è un rappresentante di quei lei, coglioni che votano i buonisti non di sono Stato, io. I buonisti di Stato che ti riempiono di clandestini. Io non sono un coglione. Di merda. Ma quale merda? Ma noi vogliamo pulire Milano. Pulire Milano, noi vogliamo pulire Milano, approfittate delle disgrazie degli altri, andate a camminare, facciamo un referendum sullo Iusoli, facciamo un referendum, voi siete la causa, quelli che votano come lei, siete la causa, se siamo governati da questi buonisti di merda, ha capito, ci vergogni, sono un comunista e sono contento. La strada. Siamo qui 800 24 00 24, c'è tempo Umberto. No, non c'è tempo. Che c'è? Che c'è ancora? Cosa c'è non ancora? Non c'è tempo. Dimmi. Perché il tuo amico Brunetta poco fa, ma mio amico, io non l'ho mai conosciuto Brunetta in vita mia, ma di sì, che parli? Poco fa in un audio che hai fatto sentire giustizia. Allora questi qui anziché occuparsi delle leggi ad personam per il cavaliere, cosa sì, che hanno fatto da 20 anni a questa parte, bene, se fossero sensibili al tema che hai posto tu, cioè di una legge italiana che non funziona, infatti io me la prendo anche con loro. Me la prendo anche con loro. Leggi lì, solo primo, che spesso secondo, le leggi sono state che clandestino, uno che commette reati, punto, può essere bianco, chi nero, chi dice, giallo, chi dice il contrario? Cruciani. Ma questa sequela di cose che ti ho detto avrà un significato o no? No, non ha nessun significato. Bravissimo, nessuno. Alessandro, cioè, da Treviso. Bravo, bravo. Dire che è un immigrato clandestino è una stupidaggine, bravo, degna dei bravo, migliori razzisti. Bravo, continua così. Dammi del razzista, dammi del razzista semplicemente perché ho messo in fila alcune cose, è entrato clandestino. Io ho detto che, cioè, non ho detto che il clandestino dire? È un delinquente. Che è immigrato? Cosa ho vuol dire no, che è io immigrato? Non ho detto che è immigrato, ho detto che è entrato clandestinamente. Hai detto che è immigrato clandestino. Lei anche benissimo, scritto ieri su Twitter. Assolutamente. In quel lettamaio di piazza virtuale che è diventato quel. Beh, quel, certo, quel, perché quel, adesso tu ti allinei a Mentano, ovviamente, senza capire un cazzo, ti allinei no, a Mentano. Non mi allineo a niente. Aspetta un attimo. Dico semplicemente che c'è una differenza tra scrivere sì, cose sulla rete nascondendosi dietro il nickname, sì, oppure bravo, avere il coraggio di prendere una bomboletta spray. Va bene, sulla bella sberla in va bene, ho capito. E scriverlo sui fammi muro, sentire Alessandro da Treviso. Fammi sentire Alessandro da Treviso, che è meglio, dai. Alessandro, dica. Sì, buonasera. Vada. Allora, guardi, io ho sentito Alessandro. Marco da Firenze. Sì, buonasera. Vada. Sì, io ascolto spesso la sua trasmissione, non riesco a trovare la definizione giusta, per, cioè il sì, modo per definire lei. Oggi ho pensato che forse lei, proprio il nome, non voglio offendere, sì, proprio servo dei potenti, penso sì, che sia proprio il giusto, sì, cioè l'identificazione corretta di, bene, che lei... È una definizione. Glielo posso una... dire chiaramente. Ma lei può dire quello, beh, che vuole. Siamo cioè, qui. Quando si sente Sgarbi dire le solite cazzate sì, in radio, e lei non ha le palle per dire sì, Sgarbi sta dicendo cazzate. Secondo me una parte di cose che dice Sgarbi sono la realtà. Sì, se ci crede. Libertà sessuale, quando il reato è la concussione, 5 anni per concussione, lui invece giocava sulla libertà sessuale, perché gli italiani sono un popolo di merda, con sì, tutto il rispetto per la parola popolo. Lei ha già condannato, cioè, Berlusconi, ovviamente, no? Non l'ho condannato, cioè io condanno uno. Lei ha già condannato, come reato, lei ha già condannato, ovviamente. Siamo alla richiesta, lei ha già condannato. Paese Italia che permette a uno che ha 75 procedimenti penali. Vabbè, quello è un altro discorso. Siamo ancora ad averlo in Parlamento. Benissimo, io ma lei, benissimo. Ma non c'è problema. Ma per mirato il piccone, perché io sono disgustato per chi, dal vedere per chi il piccone, cose, per, chi il pic, per chi il piccone, come? Scusi, perché il piccone va preso per tutta questa gente. Ma contro chi lo userebbe? Contro chi lo userebbe il piccone? Le sto dicendo, per tutti questi condannati, cioè, userebbe, il Parlamento prenderebbe Berlusconi spiegando a picconate. Allora, mi spiega. No, sia chiaro, non si nasconda, non si nasconda, sia chiaro. Non mi nascondo, la picconata è troppo pesante. E diciamo no, che è troppo allora... facile adesso tornare indietro, facile tornare indietro, comodo. No, non indietro, non comodo, indietro. Comodo allora, Marco, dico, comodo. Ma lei mi vuol far dire che devo prendere la picconata? No, ma lei l'ha detto prima, lei l'ha detto prima, Marco, lei l'ha detto. Ho detto che in una situazione che i picconi, altro che contro i passanti come ha fatto quello di colore, lei li userebbe contro i condannati, questo ha detto. Contro esatto, i condannati che sì, questo e dunque anche contro Berlusconi e dunque anche contro i condannati che lo Stato non riesce a mettere. Io non so, dice, io ho votato no, ma lei deve essere chiaro, non si deve nascondere adesso, non può nascondo, gettare il sasso e poi senta, dire no, però non volevo senta, dire zanzare dietro i vetri in montagna, in collina, in campagna. Volete sentire un altro fenomeno che viene considerato, no, un genio della cucina, un genio, no, dei fornelli, un altro fenomeno mediatico, giustamente intervistato da Andrea Scanzi per Reputation, programma di Scanzi, dice che lui Berlusconi nel suo ristorante non lo farebbe nemmeno entrare. Sentiamo questo genio della cucina, Bastianic. È vero che tu una volta hai detto che se Berlusconi venisse al tuo ristorante lo cacceresti? Sì. Lo faresti sul serio? Beh, non mi è molto simpatico. No, posso capire. Sì, è una cosa che non capisco degli italiani. Come un uomo del genere può esistere in Italia? Per americani è inconcepibile. Anche per molti italiani da 20 anni. Allora... lo so, che sì, la simpatia, il mio ristorante, preferisco avere le persone in un posto pubblico, ma ricomincia quel rumore. Va così, 800 24 00 24, non si capisce, vabbè, giusto per te, va benissimo, ma non c'è problema. No, cioè voglio dire, sì. se anch'io avessi un esercizio pubblico, sì, e ad esempio si presentasse, dico un nome a caso, il signor Fiore, il signor Roberto Fiore, quello che ogni tanto chiami. Sì, non lo faresti entrare, dice ognuno fa entrare chi vuole, ma lo caccerei anche, bravo, in malo modo. Bravo, bravo. Ma sarò come dire, se il posto è casa, è casa mia. Sarò veramente, come dire, veramente il ristorante, come sai, è un luogo pubblico. Ma che c'è? Io posso decidere di non farlo entrare. Bah, non mi interessa. Bah, c'è da discutere su questo. La sua presenza fastidiosa anche per la mia clientela. Vabbè, dai ragione a Bastianic, o come diavolo si chiama. No, è legittimo, certo, è legittimo uno che dice io Berlusconi non è un essere che non esiste, non lo farei manco entrare nel mio ristorante, ma va benissimo, se ti piace così, cioè, se ti piace, ma come è legittimo, ma se ti piace così, se ti piacciono questi personaggi, benissimo, rivendica. Ma non è che lo dice, io non l'avrei no, detto lo difendi, ma anzi, vai fino in fondo con questo ragionamento, non fare il buffone, vai fino in fondo. No, e ti dico un'altra cosa, chi, io confermo un'altra cosa, non capisco perché uno si debba prendere del razzista quando io, figurati, figuriamoci, per me il razzismo è una cosa aberrante. Se metto, aspetta, stai zitto, devi stare zitto un attimo. Io ho detto semplicemente delle cose. Perché uno non può ragionare, avrà un suo peso questa cosa qua, no? Sì, ha un suo peso. Perché uno non ha colore. Aspetta, stai tranquillo, io ho detto, uno entra clandestinamente in Italia e va bene. E va bene. Uno entra succede nelle migrazioni che uno entra clandestinamente, no? Succede in tutta Europa. Diciamo che da noi è un po' più complicato poi essere cacciati, perché uno a un certo punto, uno stato può decidere di cacciare una persona, o per te uno che entra comunque entrato e va bene. Aspetta, fermo. Entra uno clandestinamente. Benissimo. Dopodiché fa domande di asilo, anche se in Ghana non succede nulla, come si sa, no? Vabbè, ma lasciamo perdere. Uno fa domanda di asilo, questa domanda viene bocciata. Incredibilmente in Italia uno fa domanda per essere per asilo, bocciata. C'è un secondo livello, cioè puoi fare appello, robe incredibili. Fai appello, benissimo. Aspetta. Si chiama legge Bossi-Fini. Ma benissimo, ma chi se ne frega? Ma mica l'ho fatta io. Forma, però, ma non l'ho fatta io. Ma no, ma fai bene tu ad informare, benissimo, hanno fatto male. Queste anime pie che criticano queste cose che succedono, tra cui tu, però queste anime pie di politici del centrodestra sono quelli che l'hanno fatta. Io non sono né un politico di centrodestra e non me ne frega nulla dei politici di centrodestra. Ma hai detto che uno che commette no, ma devi stare tranquillo, però oddio, ma perché mi devi frega? Ma no, non è così, bisogna specificare il percorso che ha fatto questo signore e poi incazzarsi come bestia. Ah, non conta niente. Basta. Non è vero, conta, non dire stupidaggini, conta. E lo sanno tutti, la stragrande maggioranza degli italiani sa che conta il percorso che ha fatto questo signore che piglia picconate e ammazza due persone. Conta benissimo. Allora, sì, c'entra benissimo. Ha fatto. No, perché le leggi Italia non funzionano, e questo è il punto. Clandestino. E richiesta di asilo bocciata, ricorso da quel momento in poi non può più essere cacciato, fa la rivolta in un carcere, carcerato per furto, va alla rivolta in un CIE, poi incarcerato a Lecce, sfascia una cella, un vicino, il televisore. Ma no, vabbè cosa? Ma non è vabbè per giustificare. Ma confrontati con la gente, confrontati con la gente che dice che è una follia tutto questo. Ma a me quello che dice la gente è veramente benissimo. Allora molto poco. Tu pensi che sia tutto normale? Bravo, bravo. No, non dico che è normale, dico che è una stupidaggine qualificare questa persona in base a. Allora non parlare di queste cose. Criminale che ha commesso non parla, un reato. Non puoi capire o no? Sì, basta. Punto e basta. Tu ti limiti a dire. Perché tu diresti un marito di Varese, dico di Varese o di Brescia, di Bergamo, di Catania, che prende a picconate la moglie, diresti che è di Catania, no, dici che è semplicemente un criminale, no, non è che dici no, il marito che ha assassinato la moglie è di Catania, ma sì, chi se ne frega, va bene, bravo, bravo, hai detto no? La tua stupidaggine 19:41, ma no, Marco, ma è la logica, ero con Marco da Firenze, e poi abbiamo un ospite, Marco, allora? Sente? Sì, allora? Sì, ma il discorso è che lei cerca ogni volta di argomentare delle situazioni che sono inconcepibili, cioè anche questo fatto del clandestino, l'appello per il clandestino è negato, va negato, mentre invece chi l'appello lo utilizza o tutti gli strumenti li utilizza per la prescrizione, allora va benissimo? Va bene. Va bene? Cioè, ma chi ha detto che va bene? Ma chi ha detto che va bene? Lei fa il paragone tra due vicende diverse, Berlusconi e un'altra cosa. Per il clandestino l'appello non dovrebbe essere. Per me non ci dovrebbe essere. Via dall'Italia. Sì, certo, io lo dico, lo rivendico. Penso che quando uno fa una richiesta di asilo ci debba essere un giudizio solo, di asilo politico. C'è qualcuno che deciderà, no? Avrà degli strumenti per decidere. Perché l'appello? Eppure, se questo qua fosse stato cacciato, non avrebbe preso a picconate e ammazzato due persone. Si può dire questo o uno è razzista per forza? Ma questo vale per tutti quanti, quegli certo italiani che fanno dei reati gravissimi. Di no? Vale lo stesso. Vabbè, allora non consideriamo nulla. Consideriamo semplicemente che ha preso a picconate due persone. La sua trafila precedente, come è arrivato a prendere a picconate due persone, non la consideriamo, come fa Parenzo, non è importante. La zanzara stronza. Ed è con noi, caro David, da Roma, il senatore Lucio Barani. Buonasera. Buonasera a voi. Come va? Bene. Bene, bene. PDL, anche se si è iscritto al gruppo Grandi Autonomie e Libertà per fare gruppo, come al solito, Barani. Lei è sempre. Sì, ma perché uno socialista come me la parola libertà ci doveva essere, perché. Sta mancando in Italia e quindi bisogna. Sta mancando in Italia? Perché sta mancando in Italia? Manca la libertà in Italia. Confermarla. Barani. Sì, mancano quei principi di giustizia, di libertà e di democrazia. Ma lei a chi si riferisce? A cosa si riferisce? Io vengo dal PSI di Bettino Craxi. Lei è un craxiano di ferro, no? Io sono un socialista di ferro. Ma anche craxiano, diciamola tutta. Fece Craxi è stato un nostro leader, che è bene che nessuno lo rinneghi, perché in quel periodo noi eravamo la quinta potenza economica del mondo, il PIL era al 6%, scusi, 6%. Cioè si stava meglio, vabbè, ma che c'entra, erano periodi diversi. Eravamo a livello della Cina e adesso prendiamo parametro alla Cina, insomma. Cioè Barani, scusi un attimo, lei dice si stava meglio quando si stava peggio? Si stava bene in quel periodo in cui si stava bene con i socialisti e con Craxi, disoccupazione tendente a zero, poi ovviamente le potenze straniere sono riuscite a corrompere qualche giudice, il quale ha fatto questo golpe mediatico giudiziario. Vabbè, insomma, quello che sappiamo, con la lira 1936.27, che vergogna, si chiamavano Ciampi e si chiamavano Romano. Vabbè, far presidente, stiamo andando su altri fronti. Parenzo, tu conosci il senatore Barani? Il senatore Banani, non conosco nel dettaglio le grandi battaglie che ha fatto, non ho capito a quale movimento si è iscritto adesso, come si chiama? No, Gruppo Grandi Autonomie e Libertà. No, il Gruppo Parlamentare. Gruppo Parlamentare, così si chiama, se ascolti e stai un attimo di pazienza, forse è No, ma come si chiama il gruppo? Grandi Autonomie e Libertà. No, scusami, Grandi Autonomie in e Libertà sì. O per la Libertà? No, Grandi Autonomie e Libertà. Non ho capito, scusami, Grandi Autonomie e Libertà? Esatto, sì. Sì, meraviglioso, sì. Meraviglioso. Il interlocutore capisce poco, vedo. Gall, si chiama Gall. Sì, è una Grandi Autonomie e Libertà. Sembra un gruppo paraterroristico, Barani, però. Sì. I Gall, sì. No? Però para, Gall, è una sigla che... Scusi, Barani, ma lei ha... Cioè, autonomie di che? Le autonomie, ma se, che ne so, ma sai, questi nomi qua sono grandi, no, perché la cosa bella è che non è piccole autonomie, ma è grandi autonomie e libertà. Scusi, Barani, no, ma lei... no, perché sì. Alla sinistra c'è il gruppo Piccole Autonomie, che è fatto pure. Da su Tirol for Spartan, dai socialisti di Nencini, pure, pensa che tristezza. Quindi in contrapposizione noi ci abbiamo messo le grandi autonomie. È una genialata pazzesca. Una figata incredibile. Chiedo scusa se mi è sfuggita. Scusi. Barani, ma sì. Ci sono ancora le statue di grandi nel suo paese, là in Piemonte, dove diavolo è, non mi ricordo. Come? In Toscana. Ah, in Toscana, ancora, mi scusi, sì. Le statue... Allora, nel comune di Aulla, dove ho fatto il sindaco Aulla, per 14 sì. anni, sì. C'è il monumento a Bettino Craxi, c'è la sì. piazza... la piazza Craxi e il monumento alle vittime di Tangentopoli. Bene, signor Barani, mi scusi, ma Berlusconi, la Boccassini, gli vuole far fare la fine di Craxi, secondo lei? Ma io non vorrei entrare nel merito della Boccassini perché ci tengo alla mia libertà personale. In che senso, scusi? In che senso? Vorrei non dire quello che penso. No, ma lei deve dire quello che pensa. No, è che stanno pensando. Perché cosa che pensa della Boccassini? Scusi, lei, Barani. Innanzitutto che non conosce la geografia, perché il Marocco non è in Oriente, ma si trova sì. in Occidente, nel Nord Africa. Quindi sì. la prima osservazione è che mancanza. Vabbè. Di cognizioni geografiche. Vabbè, lei diceva però mondo orientale in generale, il mondo. Mi dovrebbe spiegare che cos'è questo mondo orientale, questa prerogativa sensuale o sessuale del mondo orientale. Mi sembra una forma di razzismo, ma no, ma quello lui lei ha detto furbizia. Se ne intende per ragioni sue personali che io non voglio entrare. Perché se ne intende la Boccassini, scusi? Se l'ha tirata in ballo, che non esiste in nessun libro di cultura questa prerogativa che ha tirato in ballo, si vede, non so, che ha delle esperienze sue, non certamente giuridiche, esperienze sue personali. Con il Marocco, dice lei. Con il Marocco. Non ha niente a che fare con la sua, fra virgolette, professione. Cioè, non mi spieghi questa cosa, scusi, secondo lei il fatto che lei abbia tirato, che la Boccassini abbia tirato in ballo la furbizia orientale della... ha a che fare con la vista su qualche libro di cultura di storia, di sociologia, è un'invenzione che si è presa per giustificare una cosa che non è giustificabile, sì. e forse nella sua cultura personale, sì. nel gruppo delle sue amicizie si sarà imbattuto in situazioni di furbizie orientali, ma è una sua conoscenza personale che non ha niente a che fare col sì. diritto, con lo stipendio che prende il 27 di ogni mese. Ma che persone ha, secondo lei, la signora Boccassini? Ma io non lo so, pensavo fosse un PM della Repubblica e che applicasse il codice sì. di procedura penale, le leggi dello Stato. Invece vedo che dopo 6 ore di intervento di requisitoria non ha portato uno straccio né di prova, ma tantomeno di indizio, quindi chiacchiere. Questo secondo lei dovrebbe essere quella trasmissione, la parlantina, sei bla bla bla bla bla, perché quando mi sembra di essere ritornato al processo di Galileo Galilei sulla Santa Inquisizione. Addirittura non sapevano che cosa fare, ha detto basta, dice che il mondo è rotondo, è da condannare, punto. Cioè lei dice Berlusconi come Galileo Galilei? No, io dico che sembra il processo contro Galileo. La Inquisizione posizione senza prove. Io rimango a quello che ha detto. Mi sembra che al di là di dire di ragionevole certezza non abbia detto nulla. Vabbè, comunque a lei sembra il processo deve portare prove. Sì, prove, d'accordo. Solo prove, non chiacchiere, basta. D'accordo. Io secondo non voglio, lei non voglio dire niente di più, perché mi dice il mio avvocato che non devo dire. Ma come suo avvocato? Come il suo avvocato? No, dice nel momento stesso che si doveva fare dei comunicati o delle agenzie, dice stai attento che quelli sono cattivi, aspettano. Chi è cattivo? Nel senso che aspettano una parola. Ma di chi più è cattivo? O di meno per cercare di lucrare sulla democrazia. Ma chi è cattivo? Noi. Chi usa politicamente la giustizia, e questo non sto dicendo che la Bocassini usi politicamente alla giustizia, diciamo un discorso generale. Ci sarà, ma come mai è così prudente lei, signor Barani? Scusi, ci sarà qualcuno che vuole, per via diversa da quella del voto democratico, cambiare le carte. Ma come mai è così prudente lei? Scusi, bisogna essere prudenti, perché le esperienze di giudici che ci denunciano le abbiamo già avute un po' troppe, e guardi che si arriva sempre alla condanna. Per noi, quando c'è una diatriba tra noi e un giudice, tra un politico e un giudice, noi soccombiamo sempre. Scusi Barani, lei che è stato eletto nel PDL, ma adesso soggiorna presso il gruppo Grandi Autonomie e Libertà. Sì, sono solo come le pare come mi hanno mandato al Napoli, quindi a questo gruppo meridionale di Grande Autonomia, assieme ad una cultura socialista come sì, la vabbè, mia, d'accordo, diciamo, però che faccio il Maradona in questo gruppo. Fai il Maradona. Il grande giocatore, grande. Perché gli altri che so, delle schiappe, non ho capito. No, diciamo, ma anche quando il Napoli ha vinto il campionato, mica delle schiappe erano gli altri 10 giocatori, ce n'era una sola che era. Ma sentendo lei è più capace degli altri. Beh, non è un grande apprezzamento per i suoi colleghi di questo gruppo. Comunque, no, scusi un attimo. No, lo sanno che lo faccio in maniera bonaria. Scusi un attimo, ma lei non ha trovato nella requisitoria della Bocassini un po' di, non lo so, un po' di pregiudizi razziali? Magari sì, lei l'ha detto, con questa storia della di questa cultura orientale che mi piacerebbe conoscerla. Anzi, se un giorno la conoscessi gli dico di spiegarmelo meglio. Ma non è un po' repressa? C'è qualche cosa di repressione, secondo lei, qualche cosa di personale nella Bocassini in questi in questa requisitoria, no? Beh, se io sentivo prima che parlavate di questo extracomunitario senza il permesso di soggiorno, bene, questo tipo di giudice di quelle situazioni lì non gli interessano, perché non gli danno visibilità. Gli interessa ovviamente per essere sul palcoscenico nazionale e internazionale, di fare il colpo grosso, quindi di amagarsi, magari non è forse il caso in oggetto, inventarsi qualcosa per essere. Ma lo sai che non centro... ho capito, Barani, non la riconosco più. Lei sta parlando della Bocassini o no? È una protagonista, vuole essere una protagonista. Un po', ci sono molte donne che vogliono essere protagoniste. Oggi è stata una protagonista e credo che era autoreferenziale. Credo che abbia provato di fronte allo specchio a ripetere quello che ha detto oggi migliaia di volte. Vabbè, grazie Barani, grazie. Grazie a voi. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Victor da Verona, buonasera Victor. Sì, buonasera Cucciani e buonasera Parenzo. Dica. Allora, volevo solo mettere in chiaro un paio di cose. Sì. Allora, Tortora si è dimesso da europarlamentare. Con il Pannella sono andato. Vabbè, sono casi molto diversi, però. Sono persone diverse, situazioni diverse, casi diversi. Grazie a Dio. Sì, certo, poi ognuno dà i suoi giudizi, per carità, però io farei riascoltare questa polemica, iniziando da Berlusconi a Brescia sabato, la polemica che ha coinvolto le figlie di Tortora, che è proseguita anche oggi, peraltro, Berlusconi su Tortora. Berlusconi su Tortora, arriva. Ieri sera ho voluto rivedere un filmato e mi sono commosso. Ho rivisto le immagini di Enzo Tortora che, rivolgendosi ai suoi giudici, disse: io sono innocente, spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Ed è questo il sentimento di tantissimi italiani, non solo mio, tantissimi italiani che entrano ogni giorno nel... Questo è il primo Berlusconi, la risposta di Gaia Tortora. Allora, a proposito della citazione fatta e che avete ascoltato, mi permetto solo di aggiungere, visto che sono la persona più titolata in questo caso a farlo, così come ho già fatto, che si tratta davvero, Presidente, di un'altra storia e di un'altra persona. Lo dico con il massimo rispetto, ma è quel rispetto che da tanto tempo andiamo cercando. Con il massimo rispetto anche perché questo paese ha bisogno di un altro clima e non è il clima che abbiamo visto anche oggi a Brescia. Immagino che Gaia si riferisse, conduttrice del telegiornale della Sette, al clima non della, non della manifestazione, che è una manifestazione politica, ma a quello che è successo intorno. Immagino questo. Dopodiché oggi Berlusconi ha detto che in realtà le figlie e i parenti di Tortora facevano meglio a stare zitti, perché lui non si riferiva, non si è paragonato a Tortora. Non si è mai paragonato a Tortora, ma ha citato, lo ha citato in un discorso più complessivo sul rapporto tra gli italiani e la giustizia. Non ti preoccupare, Davide, arrivo da te, su questa cosa qui, arrivo da te. Anzi, dimmela subito la tua, dai. Che è successo? Tor, che mi stava dicendo? Sì, ma ha zittito con questa clip e vada alla prossima domanda. No, no, vada su Tortora, che stava dicendo? No, no, no, no, dico, in un paese normale dovrebbe mettersi, fosse negli Stati Uniti o da un'altra parte, e si fa giudicare e si difende se la verità è dalla sua parte, che si vada a difendere. Vabbè, al di fuori di questo. Seconda cosa, sì. I radicali a suo tempo, adesso non mi ricordo, avevano già... chiesto di fare la riforma della giustizia. Allora? Non dimentichiamoci che dai 12 anni di carcerazione preventiva l'avevano portata a 6 anni. Vabbè, dunque? Però il Berlusca a suo tempo su questa riforma non ha mosso un dito. Volevo solo fare questa precisazione. Tutto qua. Va bene, grazie. Alessandro da Treviso, buonasera. Sì, buonasera. Guardi, io so che c'è stata l'altra sera su Canale 5... Sì. Una trasmissione in difesa di Berlusconi. Ieri sera, sì, uno speciale su Canale 5. Sì. Penso che non sia mai successo, non poteva neanche essere pensata una cosa del genere. Sono abbastanza d'accordo con lei. In una democrazia. No, adesso non esageriamo, non esageriamo. Secondo me... No, secondo lei, mi scusi se mi lascia parlare. Ma secondo me c'è... Aspetta un attimo. Si parla dopo. No, ma non si preoccupi, lascio parlare. Secondo me è un autogol clamoroso, non c'è bisogno che Mediaset faccia uno speciale sostanzialmente in difesa di Berlusconi. Prego, ecco, poi non capisco perché si sia prestato a fare questa trasmissione, quella di oggi, dove è intervenuto Sgarbi, che secondo me è una persona che io non considero. Basta cambiare radio. Grazie, lo so, però mi meraviglio. Allora a questo punto vado giù per le vie brevi. Vada. Cioè non capisco, ma perché non se ne va in Mediaset? Chi? E la Piana? Chi? Lei? Chi? Io? Ma perché va in mezzo? Ma scusi, ma lei ha ascoltato quello che ha appena detto o no? Sì, io ho ascoltato quello che ha appena detto o no? Oppure lei è entrato da una parte e lei è uscito dall'altra? No, lei inizia a parlare, poi interrompe. Per cortesia, mi lasci parlare. No, ma lei dice una cosa allucinante. Lei dovrebbe andare in mezzo perché benissimo. È il suo ambiente, bene. È in mezzo alla sua gente e starebbe molto meglio. Bene. Mi creda, ci vada. Bravo. Arrivederci. Bravo, bravo. Applausi per questo Alessandro da Treviso. Applausi, applausi, applausi. Niente, vabbè. Marco da Milano. Marco, applausi per Alessandro. Marco. Buonasera Cruciani, buonasera anche a Parenzo. Io intervenivo in merito all'episodio di cronaca che è successo a Milano nei giorni scorsi. Vorrei entrare due secondi soltanto nel campo ipotetico. Facciamo finta che un italiano imbraccia un piccone e comincia a spaccare il cranio a quattro extracomunitari, quattro persone di colore, definiamoli come preferite. Oggi di cosa staremo a parlare? Di gravissimo episodio di intolleranza e di razzismo a Milano. Beh, sarebbe una stupidaggine comunque parlarne. Perfetto, cioè. però sarebbe poi questo, comunque, no? Scusi un attimo, quello doveva avere sfiga, nel senso che uno è per strada, prende il primo che capita. Sì, però guarda caso ha preso quattro italiani, no? Anche la stessa sfiga avrebbe potuto avere un italiano che guarda caso ha preso quattro. Vabbè, ma dove vuole arrivare? Io guardi, no, io ho semplicemente detto che citare no, il percorso Cruciani, di questo signore. Cruciani, io le do ragione, io Per me c'è l'aggravante dell'odio razziale. Questa persona odia gli italiani perché se uno ha fame non va a spaccare il cranio alla gente, va in un supermercato e ruba la bistecca. Sì. Non spacca un CIE, non si fa mettere in galera perché disfa una cella. Ho capito. Parenzo, che dici? Ma adesso si arriva alla follia addirittura di capovolgere le cose, perché la gente non capisce un cazzo, purtroppo. Un reato è un reato, non esiste l'aggravante perché uno è negro, perché uno si chiama Cruciani, perché uno si chiama Pinco Pallo, perché si chiama Berlusconi. Ma nessuno dice reati. Che ci deve essere l'aggravante, nessuno sostiene che ci deve essere l'aggravante. Quando voi fate queste ricostruzioni, ma voi chi? Ma voi chi? Ma voi chi? E i tuoi, tu e ma questi, che dici? E questi che dici? Ma tu che e dici? Questi che chiamano. Il reato è reato e non ha alcun io tipo non di colore. Io non ho il prosciutto quando davanti agli occhi, non sono questo, farai un passo in avanti. Va anche bene. Tu nella civiltà giuridica, allora, che caratterizza benissimo. L'Occidente, dammi del barbaro nei paesi normali, uno che ha il percorso nei paesi normali, uno che ha il percorso di questo signore non si trovava l'altro giorno a Milano a prendere a picconate due persone. Questa è un dato di fatto. Ringrazia le leggi fatte dalla Boffi, ma questo è un altro discorso. Non ci sono solo le leggi, sono anche le interpretazioni, la cassa della la Corte Costituzionale, le interpretazioni dei magistrati, strati, eccetera, eccetera. Servi di Roma fuori. Oh, ma scusa, Borghezio, che è successo ieri? Eri andato a un banchetto, ti hanno aggredito, Marione? Ecco, no, c'è stato l'intervento provocatorio di alcuni militanti di sinistra. Dove sei che c'è il viva voce? Dove sei che c'è il viva voce? Non si sente niente, prendi il telefono. No, in mano. Non c'è il viva voce, sono a Torino, sono sulle scale di casa. Ah, ecco, sali un attimo perché altrimenti forse, no, perché si sente un rimbombo pazzesco. Dalle scale di casa. Sì, si sente un rimbombo pazzesco. Ci sei? C'è stato un intervento probabilmente infastidito di alcuni militanti della sinistra, perché noi stavamo raccogliendo alcune centinaia, pensate, in due ore abbiamo raccolto, mi pare, oltre 250 firme. Vabbè, non è granché, insomma. Popolare, che sono molte, tenete conto, di domenica mattina alle 10. Ma chi erano quelli che ti hanno attaccato là intorno? Ma erano militanti della sinistra, tre o quattro militanti. Tu ci sei? Poi questa mattina giornalisti ce n'erano pochi, c'erano degli operatori della 7. E questa mattina invece i solerti giornalisti dei giornali di regime hanno scritto tutti che c'è stata la sollevazione del quartiere. Ora, delle due l'una, o è il quartiere che firma, e quindi le centinaia. Vabbè, non c'è stata nessuna sollevazione, benissimo. Senti, però volevo chiederti una cosa. Quelli che hanno firmato erano quelli che uscivano dalla parrocchia, dalla celebrazione, molto affollata. Tu non ci sei andato visto, ci sei andato giù pesante, comunisti. Noi siamo stati provocati in tutte le maniere, con insulti di ogni genere, e la nostra risposta è stata quella: siete provocatori comunisti, ma nessuno da parte nostra c'è stato un atteggiamento corretto. Scusami, Borghezio, e ma naturalmente la provocazione era evidente direi lo sconcerto per il fatto che noi, figurati, non avevamo nemmeno azionato il megafono proprio per non disturbare la funzione importante che ci stava svolgendo. Vabbè, senti, dimmi un attimo, per il ghanese che ha ucciso due persone ci vorrebbe la pena di morte secondo te? Ma voi sapete che io sono molto scettico sulla pena di morte per tanti motivi. Quale pena sarebbe adeguata? Quale pena sarebbe adeguata? Io però ho un'opinione molto forte in questo senso. No, però restiamo un attimo su questa cosa qua. Quale pena sarebbe adeguata? Questo criminale dovrebbe farsi ovviamente scontare il massimo della pena, quindi un ergastolo senza se, senza ma, bisogna ovviamente assicurarlo. Sì, sì. Ma io dico che una condanna morale molto pesante. Sì. Io non esito a definire assassini morali quelli che hanno consentito a questo signore. E chi sono? E sono quelli, i falsi buonisti, ipocriti della sinistra, catto comunista, ipocrita. Per esempio? Continua a predicare anche da altissimi scranni istituzionali contro i CIE. Per esempio? Per il buonismo. Per esempio? Per riconoscere i privilegi dell'asilo a chiunque. Per cui un signore che presenta una domanda di asilo oggi si permette di fare queste cose. Scusa un attimo, ma chi è il primo assassino morale secondo te? Direi che mi sembra piuttosto evidente, perché tutti i giorni li sentiamo sproloquiare. Dimmene uno però. Qui... cose. Io non voglio fare nomi. Ma come no? Vabbè, Mario, ma che è stasera? Non voglio fare nomi perché c'è una situazione incandescente e soprattutto ci sono dei morti ancora caldi. Quindi non voglio essere accusato no, ma di fare dello quando, sciacallaggio. Quando tu però parli di assassini morali... Se voi mi richiamate fra due o tre giorni, io i nomi ve li faccio uno per uno. Tutti sanno a chi mi riferisco, perché le persone che in questi giorni sì. ci hanno bombardato delle loro lamentele e ci hanno sopraffatti con i loro discorsi mielosi e buonisti a favore sì. dei clandestini, sì. tutti gli italiani ne conoscono nome, cognome, indirizzo e sesso. Quindi non c'è in questo bisogno. Ma chi c'è? Qua, come il primo, dico, il primo assassino morale dov'è? È seduto in qualche alto scranno? In qualche alto scranno del Parlamento? Sicuramente uno dei più, una delle persone più responsabili è su un alto scranno istituzionale. Cioè questo, della Camera? Della Camera? Perché, perché già prima di questa, di questa funzione parlamentare sì. si era dedicata la persona al bombardamento continuo di un governo che cercava di mettere ordine sì. nell'afflusso nell'afflusso criminale. Beh, stai parlando della signora, stai parlando della Boldrini. La Boldrini, secondo te, è l'assassina morale dei due italiani? Secondo me, le vittime dei clandestini. Per le vittime dei clandestini bisogna indicare la responsabilità prima ancora di qualche manigoldo che sì. materialmente li ha uccisi sì. dei mandanti morali, dei responsabili morali di queste persone. È la prima, secondo te, sono tutta gente con la pelle chiara come la mia. È la prima, secondo te, il presidente della Camera, diciamo, l'hai detto esplicitamente quasi, diciamo. Sì, se lei mi dice, mi chiede se io escludo dal novero di questi mandanti, di questi assassini morali sì. Il presidente della Camera, io dico che non lo escludo. Ah beh, ho capito, ma è come dire che è il primo assassino. Io dico che sono diversi, perché per esempio quelli che hanno voluto instancabilmente sì. Come dire, demolire la costruzione degli istituti creati dalla legge Bossi sull'immigrazione sono altrettanto colpevoli. Quelli che con una serie di continua di attività giurisprudenziale sì. magistrati sì. hanno cercato di svuotare il significato ordinamentale sì. Scusa Mario, Parenzo. Scusami. Sì, dimmi. Voglio chiedere a Borghezzi una cosa: in che senso la terza carica della struttura della signora Boldrini è responsabile morale? Cioè, di che cosa io parla? Detto, in che senso? Io sono stato molto chiaro, ho detto con molta chiarezza che bisogna avere il coraggio di dire che se ma in quale atto? In che cosa? Mi lascia spiegare. Sono perfettamente convinto che oggi ci sia la necessità di dire con chiarezza che se noi indichiamo e se noi abbiamo di fronte a noi i colpevoli presunti o reali, sì. in questo caso reali, del gesto criminale sì. e assassino di chi ha ucciso degli innocenti, sì. la nostra condanna morale deve essere ancora più forte verso persone che non hanno, fra virgolette, la giustificazione di essere clandestini disperati in situazioni di e invece che fanno? Propaganda filo... persone sane di mente sì. che ricoprono alte cariche, che hanno avuto alti incarichi anche internazionali all'ONU, super sì. stipendi, e hanno predicato un buonismo ipocrita, falso e dannoso. Vabbè, ho capito. Che ha creato la situazione per cui il clandestino può fare il cazzo che vuole. Ho capito bene. Questi sono i mandanti, gli assassini morali dei due italiani. Delle due poverine. Senti, un'altra cosa, ma tu lo sai. Che subiscono i reati dei clandestini. Lo sai, Mario, che qualcuno dice che non dovremmo mantenerli in galera, questo qua, questo ghanese, no? Questo signore ghanese che ha ucciso due persone. Ma appunto, e questi che bisognerebbe fare, secondo te? Sono parenti stretti degli assassini morali. No, ma che bisognerebbe fare? Signore. Che bisognerebbe fare con questo signore ghanese, secondo te? Non ho capito che bisognerebbe fare con questo ghanese che ha dato queste picconate, secondo te? Ma io le dico. Qual è la pena giusta oltre l'ergastolo? Io le dico con molta sincerità che sì. Anche di fronte a un delitto efferato come questo. cosa. Questa è stata una... questa è rabbia. Questa è rabbia che avete voi, che ce l'ho io. Ma è una rabbia sana. È una rabbia che ha aggregato milioni di persone in un processo democratico. È una rabbia per bene. E di contro, noi contro la nostra rabbia giusta e pacifica ci scatenano l'odio. L'odio in tutti i sensi. L'odio, i titoli dei giornali su me, la mia famiglia, mia moglie, mia sorella, i miei figli, mettono in televisione il mio indirizzo, il numero del campanello, vanno a vedere la moglie di Casaleggio, che andatelo a vedere i conti, andateli a vedere, sono pubblici, la mia dichiarazione dei redditi è pubblica, potete andarlo a vedere quando volete, non ho nessun problema. Ma stiamo scherzando. Io poi potrei avere mille miliardi potrei avere. Però sono io lavoro da 41 anni. Potevo anche battermi nei coglioni, non venire a Avellino, godermi i miei soldi e mandare il mondo a fanculo. Non l'ho fatto. Ora, devo dire la verità che io non vedo questo accanimento nei confronti della vita privata di Grillo. C'è stata qualche immagine, qualche cosa, qualche inchiesta, ma come in tutte le società occidentali, quando una persona smette di fare il comico ed entra nella vita politica, a un certo punto la stampa comincia a indagare, comincia a fare delle indagini, delle inchieste, una cosa normalissima. No, ho capito, perché lui può dal palco dei suoi comizi, dei suoi spettacoli, sputtanare e dire la qualunque su uomini della politica e nessuno può neanche fare una foto alla casa dove sta. Ma mi pare un'accusa assurda questa. O inseguirlo per una intervista, il massimo che è stato fatto. Ma è normale, è normale che accada questo. O Casaleggio, poi il casellario giudiziario suo, cosa che lui ha fatto costantemente per scrivere dei suoi spettacoli, perché ha preso il casellario giudiziario di tutti i politici della Prima Repubblica, ha fatto un bellissimo copia e incolla, ha messo le foto di queste persone con a fianco la condanna, sì, che avevano ricevuto, e qui non ho capito, lo può fare lui e non lo possono fare i giornalisti? Ma di chi parliamo? E sei tu che l'hai votato, ma ancora una volta io veramente, ma mi dispiace, perché si chiama schizofrenia a casa mia, cioè l'hai votato, hai mandato in Parlamento questa pattuglia degli apriscatole, hai quella della coppetta mistura, tutta questa gente qui che tu hai contribuito a mandare lì dentro, sì, e ora ti stupisci pure. No, io critico perché non accendo il microfono della radio on air, mi indigno. Ma chi si indigna? Io ma critico, io... amico mio, on air, la luce rossa, no? Ecco, sei in onda. E dice, ma cazzo, ma l'hai votati fino all'altro giorno, allora? Porca miseria. E allora? Ma l'hai votati? E allora, una volta che li ho votati, che devo avere? Li devo difendere come una falange armata? Non ho capito. Ma no, ma li devo difendere come una falange armata? Questa è la tua concezione di votare qualcuno. Io invece ragiono in maniera diversa. Io voto, dopodiché mi dimentico del mio voto e analizzo le singole cose. Ancora Grillo. No, la piccola media impresa, di nuovo alle banche! E noi l'abbiamo denunciato! E allora hanno corretto! Giancarlo da Milano, buonasera Giancarlo. Sì, buonasera. Dica. Buonasera Cruciani. Dica. Sono imbufalito. Perché? Allora, lei deve provare un po' di vergogna. Perché cosa, scusi Giancarlo? Perché ha fatto il processo alla Boccassini. Ma quale processo? Ha permesso a Sgarbi di dire delle cazzate in mani. Guardi, Sgarbi ha detto delle cazzate in può mani. Può darsi, ma Sgarbi quelle cose... E lei gli dava corda. Oddio. E lei gli dava corda. Sgarbi, quelle cose... E in più critica la Boccassini. La Boccassini è un eroe. È intoccabile. È un eroe la Boccassini. Sì. Lei ha avuto il suo momentino di gloria e si deve vergognare di fare il processo alla Boccassini. Ma chi ha fatto? Ma chi ha fatto il processo alla Boccassini? Lei ha fatto il processo. Ma quando mai? Lei ha fatto il processo alla Boccassini. Ma quando mai? Sta facendo il servitore di Berlusconi. Ma lei è pazzo. Si vergogni. Ma si vergogni. Si vergogni. Ma lei è malato di mente, Giancarlo. No, lei è malato di mente. Lei è fuori di testa. Non sa lei di... è un povero ragazzino malato di mente. Lei non sa di che sta parlando. Ha fatto il processo alla Ma quale processo? Ma si rende conto? Ma dove? Ma guardi in che arriva cosa? L'ambulanza. Guardi che sta arrivando l'ambulanza. No, l'ambulanza non la mando. Sta arrivando l'ambulanza. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno, Giancarlo. Con lei non c'è bisogno dell'ambulanza. Non si preoccupi. Come si vergogni, si vergogni. Continui, così si sfoga un po'. Ma che continui? Continua lei a fare il buffone. Così si sfoga un po'. Io l'ascolto tutte le sere, lei è un buffone. Benissimo, allora perché ascolta? ascolto perché mi diverto, perché lei è un buffone. Oh, ecco, finalmente ci siamo arrivati. Lei è un buffone, ha fatto il processo alla Bocca. Ma dove sto processo? Ma dove? Ma io mi conto, la denuncierei io se fossi la Boccassini. E mi denuncio. Se fossi la Boccassini io la denuncierei. Benissimo. La quererei. Benissimo. Ha dato corda, a Sgarbi, sì, di dire delle cazzate in mani. Benissimo. Ma ti rende conto? Ma guardi che non è la prima volta. Di andare a controllare il figlio della Boccassini. Ma quello... Di andare a controllare lo zio. Ma quello è rimasto nel bar. Oh, insiste ancora. Giancarlo, si calmi. Lei è un servitore di Berlusconi. Vabbè, la lascio sfogare. La saluto, stia bene. Sì, sì, vada. Oh, sono talmente servitore di Berlusconi che stasera, caro Parenzo, ospitiamo un imprenditore, un agente, uno che è stato l'agente anche di Noemi Letizia, che è stato già ospite di Servizio Pubblico qualche settimana fa, te lo ricordi, Parenzo? Non l'ho visto al Servizio Pubblico. Ma che non hai visto? Ma come fai a non vedere? Francesco Chiesa Soprani, buonasera. Ah, buonasera a voi. Buonasera, ma perché Parenzo non sa nulla ogni volta? Ma cioè, quanti sono? Ah, ma sono uno, ho due cognomi, ma sono uno. È uno solo, Chiesa. Chiesa Soprani, sì, è un cognome interessante. Vuole perché... Sono nobile. No, dall'aspetto non sembra Chiesa Soprani. Ma diciamo che sono nobile alla Scanio Pacelli, con i tatuaggi, insomma. Quindi... Ah, è un nobile moderno, diciamo. È un nobile moderno, giusto. Benissimo. Senta, Chiesa Soprani, ha visto lo speciale di Canale 5 ieri sera? Sì, l'ho visto con interesse, ho visto che Rubi a inizio intervista... Quante fandonie c'erano nel complesso, sto dicendo? Ma diciamo che l'80% sono fandonie e il 20% è realtà. E Rubi ha fatto il suo nome quando ha detto che non la conosceva, in sostanza. Rubi ha fatto il mio nome per dire che ha rilasciato l'intervista nello speciale, appunto per ribadire che non mi conosceva, cosa che invece io ho detto a Servizio Pubblico. E io ribatto la mia verità, che Rubi l'ho conosciuta, l'ho incontrata 3 volte e sì, mi ha detto quella che in realtà è la verità e che ho detto a Servizio Pubblico. Senta, oggi la Boccassini ha chiesto 6 anni a Berlusconi, più un'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dicendo che è provato il fatto, senza ombra di dubbio secondo lei, ma ovviamente è l'accusa, che abbia fatto sesso con... Rubi, ci può ricordare perché secondo lei questa cosa è vera? Ma per quanto riguarda la mia esperienza personale, io posso dire con certezza che Rubi Carima ha fatto sesso con Berlusconi, perché la stessa me lo confermò davanti al mio ufficio. Io ho l'ufficio in Viale Monza numero 6, di fronte a me, proprio di fronte, Viale Monza numero 9, c'è cioè l'ufficio di Lele Mora, quindi la sera arrivava il direttore Emilio Fede con la scorta, con la sirena blu e le guardie del corpo, e io attraversavo la strada quando lo incontravo per salutarlo, perché sono amico, anzi ero amico del direttore. E in questi incontri per ben 2 volte ho incontrato Rubi, me l'ha presentata il direttore, quindi in maniera molto schietta abbiamo parlato di vari argomenti, tra cui le sue cene e i compensi, ma è stato un discorso che ci è arrivato perché, facendo io l'agente ed avendo tra le mie ragazze che assistivo delle ragazze similari a Rubi, la stessa si è sentita in dovere di precisarmi alcune cose, e siccome so capire quando una persona mente o dice la verità, soprattutto se ha 17 anni come Rubi all'epoca, dubito che Rubi stesse mentendo quando mi raccontava che prendeva 5.000 euro, che non aveva bisogno del mio aiuto come agente in quanto era già sistemata, perché Lele Moro la seguiva, Emilio Fede la portava a Genova e Berlusconi la pagava, che era già piazzata in un appartamento dove non pagava assolutamente nulla. Insomma, mi ha detto: del tuo aiuto non so che farmene, perché io mi ero proposto di aiutarla come agente. Però chiesto Brani, tu hai incontrato, lei ha incontrato 2 volte Rubi in tutto? 3 volte, 2 volte sotto l'ufficio e 1 volta in Corso Como. Quando è che le ha raccontato dei rapporti sessuali con Berlusconi? Dei rapporti sessuali nelle 2 volte che l'ho incontrata davanti all'ufficio, e preciso... Cioè così, davanti all'ufficio al volo uno si mette a raccontare dei rapporti sessuali con Berlusconi? Sì, perché quando l'ho conosciuta, nel primo appuntamento, mi stava spiegando dove stava andando, e quindi andava a delle cene dove era presente anche il Premier. E quando io gli spiegai che poteva andar bene come meteorina, perché io portavo le ragazze a Fede per fare il casting da meteorina del meteo di Rete 4. Sì. Quindi pensavo, mi prendo Rubi, era prassi in quel periodo, non avrà ragionare così, poi può essere anche sbagliato, lavora con me, la porto da Fede, fa la meteorina e io guadagno. Lei mi spiegò che non poteva fare la meteorina perché già lavorava col Mora, al che gli dissi: ma lavorare col Mora non vuol dire guadagnare. E lei mi disse: ma tanto i soldi soldi me li danno dove sto andando. Vabbè, ma lei entrò nel dettaglio poi dei rapporti sessuali con Berlusconi? I rapporti sessuali entrò nel dettaglio nel secondo incontro, perché io mi feci avanti dicendo: guarda che sono l'agente di Noemi Letizia, sì. Quindi le ragazze ma cosa disse? Cosa disse nello specifico? Sono andata a letto con Berlusconi, ho fatto questo, questo e quest'altro, insomma, in qualche modo si... Lei mi disse scopata più, scopata meno, me ne sto, poi parole testuali, me le ricordo, perché scopata più, scopata meno, me ne sto dove sono, perché prendo 5.000 euro e non devo lavorare. Ma poteva essere con chiunque, però. Ma che vuol dire? No, il soggetto in quel caso era il premier. Però le prove quali sono di questa cosa qua? Semplicemente un colloquio tra lei e Rubi Rubacuori, che lei nega, peraltro. Allora, il colloquio che ho avuto con Rubi Rubacuori, il fatto che con me c'erano due persone, tra l'altro attendibilissime, due persone che non devono mentire per me, quindi nel caso in cui fossero sentite, se mai succederà, diranno quello che reputano opportuno dire, ma non ero solo, c'è una mia collaboratrice e il mio collaboratore, che tra l'altro non lavorano più per me, addirittura uno, se non sbaglio, all'estero, quindi potrebbe anche dire il contrario di quanto dico. Ma andò nel dettaglio la signora Rubi Rubacuori? Nel dettaglio per quanto riguarda il rapporto sessuale con Silvio Berlusconi, l'ex premier Silvio Berlusconi, no. Mi spiegò che nelle cene era prassi avere rapporti sessuali, ma questo è quello che mi disse lei. Sì, poi le altre oggettine che io conosco perché ero l'agente, Maristel Garcia Polanco, Barbara Guerra, Nadia Macri e tante altre, sono andate tutte con Berlusconi, queste che lei mi ha loro stesse sono tutte andate con Berlusconi. Mi spiegavano che sotto la sala che abbiamo visto ieri sera in televisione c'era anche un palo da lap dance che ieri sera logicamente il famoso palo ma perché negano alcune, no, la Nadia Macri no, ma perché alcune negano di queste qua adesso, perché sono pagate? Negano perché sono pagate, perché prendono 2.500 euro al mese per non fare assolutamente nulla. Il premier, l'ex premier, dice che le paga perché queste ragazze hanno avuto problemi. Non lavorano più. Ma il problema è che queste ragazze, io conosco benissimo, lo dico a tutti gli italiani, non hanno mai lavorato, si sono sempre fatte mantenere da pappone da uomini che le pagavano. Quindi il premier, l'ex premier, non deve dire le mantengo perché altrimenti non lavorano, perché non hanno mai lavorato in vita loro. Questa ragazza le mantiene soltanto per pagare il silenzio. Benissimo, torniamo tra un attimo dopo la borsa. 800 24 00 24, per l'intervista a servizio pubblico, Chiesa Soprani è stato querelato, almeno c'è stato un annuncio di querela da parte dei legali di Berlusconi, che però, secondo quello che ci risulta, non è ancora arrivata, pervenuta. Marco, provincia di Chieti. Allora, Marco. Sì, salve, da Lanciano. Da Lanciano, dica. Lei è un servitore, quindi, è un servitore di Berlusconi. Sì, infatti sono talmente servitore di Berlusconi. Un attimo solo, Marco, che torniamo in collegamento con Francesco Chiesa Soprani. Come posso definirla adesso, Chiesa Soprani? Che fa di mestiere adesso, dopo fallimenti e cose vicissime? Dopo fallimenti un po' eccessivo, perché io devo ancora avere un... Deve ancora avere un... Soprani? Allora Marco, vada lei. È sparito. I telefoni, oggi va così. Marco. Sì, allora, no, nulla, solo per dire che il potere di quest'uomo è infinito, perché nonostante tutte le cose che ha combinato non lo si riesce a inchiodare. Beh, non lo riesce a inchiodare, è stato condannato non più tardi di qualche giorno fa, come lei sa, in secondo grado, a 4 anni. Ma dopo quanto? Uno si difende dal processo, è imputato. Fuori dal processo, e da quanto è imputato? Ha un sacco di procedimenti, alcuni sono prescritti, altri ha fatto un po' di leggi che l'hanno favorito, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto quello che sappiamo adesso, non dobbiamo ricapitolare tutto, no? No, però lascia perplessi un po' questa cosa. Comunque io volevo... Ma cosa lascia perplessi? Cosa lascia perplessi? Il fatto che lui sia riuscito ad andare a scappare a tutte i vari procedimenti che aveva in corso, con per prescrizione e altre cose. Ci sono state tante ammissioni. Comunque lui si è paragonato a Enzo Tortora. Enzo Tortora, europarlamentare. No, non si è paragonato a Enzo Tortora. Non si è paragonato a Enzo Tortora. Sbagliando, citato. Ha evocato la vicenda Tortora per parlare della mala giustizia in Italia. È una follia. Sì, ma non. Sì, però per Enzo non è tutto una follia. Enzo Tortora è stato un protagonista della vita pubblica italiana, che è stato citato. Aspetta, ma mi fai finire o no il ragionamento? Oppure questa sera non mi fai finire nessun ragionamento? Enzo Tortora. Vabbè, non sarà un ragionamento. Per te saranno delle cazzate, fammene dire però. Allora, Enzo Tortora è una persona pluricitata. Pluricitata, cioè negli ultimi 20 anni, 30, è così, è stato citato a sproposito 400 milioni di volte, appunto, da chiunque, appunto. Va benissimo, d'accordo, appunto. Berlusconi ha citato una cosa, cioè un suo, il fatto quindi di aver... Vergogna. Ma vergogna cosa, vergogna? Non vergogna si è paragonato a Tortora. Come caso. Vergogna a citare ogni volta che c'è un caso di mala giustizia o di presunta mala giustizia, sì, il caso Tortora. È una vergogna assoluta, perché Tortora è stato sì un martire del sistema della giustizia ed è anche sì, morto per sì, colpa del sistema, del sistema della giustizia. Il signor Berlusconi, che evoca il caso Tortora, sì, commette un doppio gravissimo errore. Primo, calpesta la memoria di un uomo veramente vittima della giustizia, perché è morto. Ma non calpesta nessuna memoria, stai esagerando adesso. Io ho detto che ha sbagliato a citarlo, ma non calpesta nessuna memoria, dai, su, smettila. Che sono persone riservatissime, anche le figlie, in particolare Gaia, che io conosco, che sono persone riservatissime, sì, e che non hanno mai usato, sì sì, invece questo è molto serio, sì, vabbè, e certo, non hanno mai usato tua, il nome certo, del padre per qualunque cosa, sì, quando anche le figlie si sentono in dovere di difendere la memoria di un uomo. Ma questo che vuol dire? Questo è un altro discorso, dai. No, è questo il punto. Vabbè, non è questo il punto. È legittimo che le figlie reagiscano, non c'è dubbio. Il caso Berlusconi non ha nulla a che vedere con Tortora. Ma chi lo dice? Non l'ha detto Berlusconi questa cosa qua. Non l'ha detta. Non deve essere evocato. Non deve essere neanche evocato. Ho capito, ma è un comizio. È un comizio. È un comizio. È un comizio politico. È un comizio politico. Ha maggior ragione. Tu invochi il politicamente corretto, ma non c'è politicamente corretto, non c'è il caso Tortora con Berlusconi, quello si è dimesso. Stava parlando dell'atteggiamento degli italiani nei confronti della giustizia. Dunque, ma che stava c'entra Tortora con questo? Berlusconi è vero, tutto. È vero o no? È vero che o no? C'entra Berlusconi. Vabbè, ma non c'entra infatti il caso Berlusconi. Peggio mi sento se il riferimento, che è quello a cui, per giustificarlo, a cui fai riferimento. Ma io non sto giustificando nessuno, smettila con questa cosa, non giustifico nessuno. Il circo che mediatico che si è creato attorno all'arresto di Tortora, perché la colpa dei giornalisti dell'epoca fu quella ovviamente di fare una campagna contro Tortora, questo è l'altro problema dell'epoca. Allora, se a questo faceva riferimento Berlusconi, beh, anche qui non ci siamo, e anche qui vergogna. Va bene, una volta. Vergogna, d'accordo. Hai fatto la tua predica, dai. Non c'è stato nessun circo. Andiamo a Marco, andiamo da Marco non da provincia. Non c'è stato nessun circo mediatico ieri. Come no? Su Canale 5, non c'è stato nessun circo mediatico. Ma ieri andato in onda. No, lascia perdere ieri. Ma di che parli? Ah, contro Berlusconi non c'è stato nessun circo mediatico. Ma ieri ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Uno speciale che sembrava che Ruby fosse la figlia di Papa, fosse nipote del Papa. Vabbè. Ma di chi parliamo? Sei pronto per Rai 3? Sei pronto per Rai 3? Marco dalla provincia di parlando? Sei pronto per Rai 3? Marco ma dalla provincia di Chieti. Sempre pronto per Rai 3, per tutto. No, per Rai 3 soprattutto, ma... Marco dalla provincia di Chieti. Beh, quello c'è. Guardi, sono perfettamente d'accordo e tra l'altro voglio aggiungere anche un'altra cosa, che a tempo Tortora non si avvalse dell'immunità, mentre Berlusconi cerca solo quello. No, benissimo. Capito? Cerca solo quello. Quindi ogni possibilità di sfruttare questa immunità parlamentare, basta. Quindi va bene, grazie. Non è proprio... grazie a lei, Marco dalla provincia lei di Chieti. Speriamo ancora in collegamento con Francesco Chiesa Soprani. Francesco, ci sei? Sì, ci sono. Non vorrei che fosse Berlusconi o qualcuno che non mi vuole far parlare. No, non ti preoccupare. Ma adesso perché sì, Francesco Chiesa Soprani, sì, di professione già agente della signora Noemi Letizia, sì, si sveglia improvvisamente adesso? Adesso ce lo spiega perché si è svegliato, come dice Parenzo, improvvisamente a raccontarci perché queste cose qui, a raccontare già. No, io non l'ho svegliato. Sì, dimmi. Ti rispondo. Parenzo, giusto? Sì, vai. Allora, io in questi ultimi anni ho rilasciato dichiarazioni similari al Fatto Quotidiano, in tre occasioni, Fatto Quotidiano, Novella 2000 e Vanity Fair. Sì. Ecco qua. E in queste tre occasioni ho raccontato in modo similare, però ciò che ho raccontato non è stato ripreso dai media come al servizio pubblico. Sì, ma perché non sei andato dai magistrati? Ma io quello che ho detto, già da tempo lo dico, e se mi avessero chiamato i magistrati, perché Emilio Fede dice che io sono stato sentito... E sono inattendibile. Sì. Io non sono mai stato sentito. E perché? A me nessuno mi ha chiamato. Scusa. E perché nessuno ti ha chiamato? Scusa. Ma forse pure. Perché non ho mai reclamizzato la mia posizione. Perché non cerco notorietà. Perché non ho cercato compensi economici. Ma perché adesso lo stai facendo allora? Perché lo stai facendo adesso? Ma lo sto facendo perché quando vedo determinate persone sì. raccontare delle cose che non stanno né in cielo né in terra, sì. perché tra l'altro so realmente come sono accadute, sì. mi viene rabbia. Forse anche perché la mia vita è cambiata, i problemi economici... Cioè non sai quello, non sei quello di prima? Guarda, sembra stupido dirlo perché lo ha detto Corona, lo dice Lele Mora, tutti dicono siamo cambiati. Io ti dico di più, mi sono sposato e aspetto un figlio tra un mese. Quindi forse ho un motivo in più per dire che sono cambiato e comunque cerco di vedere la vita in un altro modo. Ma chi se ne frega di questo? Però scusami un attimo. Scusami, ma chi se ne frega? Si è sposato, ha cambiato vita, vabbè, si è convertito, è diventato un capo generale. Cioè, fortunatamente no. Vuoi raccontare queste cose per cambiare l'Italia? Questo hai detto una volta. Ma non voglio esagerare, non voglio cambiare l'Italia. Questo hai detto. Io so che Berlusconi mente. Io so che i soldi li hanno offerti anche a me. Come li hanno offerti? Come li hanno offerti a te? Quanti soldi? Chi te li ha offerti? Allora, siccome l'argomento è delicato e io sento un ritorno fortissimo di rimbombo, non so il perché, sì. se mi puoi richiamare per cortesia, perché ti non richiamo, voglio parlare in queste condizioni, ti richiamo, è un argomento delicato. Ti richiamo subito, stasera abbiamo un po' di problemi. Eccoci qui con Francesco Chiesa Soprani che ci stava dicendo hanno offerto dei soldi anche a me per tacere, per non parlare, così? Sì, mi senti? Sì, sì, ti sento bene, dimmi. Ok, speriamo che non cada la linea. Ci sono tre momenti che devo spiegarti perché io qualunque cosa dico nel momento in cui mi viene chiesto la voglio provare. Vai. Devo spiegarti tre episodi. Dimmi. Il primo è un incontro in ufficio dal direttore Emilio Fede in cui ho fatto presente che una TV australiana sì. mi voleva intervistare con un compenso per parlare di questi argomenti. Anche per correttezza l'ho informato. Il direttore mi disse: guarda Francesco, parlo con Ghidini perché non ha senso, visto che non è la procura in cui devi dire la verità, ma è un'emittente televisiva, vediamo quello che possiamo fare. Ma questo fare. Quanto tempo fa? E questo è successo circa un anno fa, circa un anno fa, maggio dell'anno scorso, poi? Aprile dell'anno scorso. Dopodiché, quindi, che mi disse, sento Ghidini, ci penso io, non ti preoccupare, mi diede dei numeri per mettermi in contatto con Ghidini, e questo è il secondo passaggio. Il terzo passaggio è un appuntamento in uno studio a Milano, sì. dove in questo studio mi fu offerto. Quale studio, di che cosa? Di avvocati? C'era Ghidini? È uno studio legale, però mi fermo qua perché... Uno studio legale è collegato allo studio di Ghidini? Sicuramente. Poi allora? Spetterà loro dire se queste cose sono vere o no, io di conseguenza mi muoverò. Ti dicevo, poi mi è stato offerto un compenso di 2.500 euro che sarebbero stati bonificati sul conto corrente di un'oggettina, di una ragazza. Cioè mensili? Scusa? Mensili? Mensili. Cioè praticamente ti volevano arruolare come le oggettine, ecco, a 2.500 ecco, al mese? Un'oggettina con i tatuaggi praticamente. E avrei dovuto smazzare i 2.500 con questa ragazza. Siccome in quel momento la mia intervista in Australia valeva un po' di più e poi non sapevo per quanti mesi mi avrebbero pagato, onestamente io non ho accettato. Sia ben chiaro che stiamo parlando di un'intervista, perché se fossi stato chiamato in procura non sarei andato da Emilio Fede, ma andavo in procura e avrei risposto alle domande che mi avrebbero scusa, una volta che ti hanno offerto questi soldi, tu non sei andato a denunciare questa cosa? Allora, se devo essere sincero, nel momento in cui ho rifiutato... Io il giorno stesso, e sia ben chiaro che se lo dico è perché so quello che dico e qua mi fermo, sono andato in procura, al sesto piano, se non mi ricordo male, dal PM San Germano, non c'era, c'era una signora sui 50 anni che sicuramente si ricorda di me, sì. Ho dato i miei dati, nome, cognome e telefono, dicendo che volevo essere richiamato perché avevo qualcosa da dire. Poi nessuno mi ha richiamato e ci sta perché magari si è perso il nominativo, perché hanno tante cose da fare, ma no. Dubito che questa persona, che immagino lavora al sesto piano in quell'ufficio, sì. non si ricordi di me. Quindi questa cosa è provata. Vabbè, sostanzialmente dice Parenzo, perché non sei tornato il giorno dopo? Perché è andato dalla polizia. No, beh, la polizia mi sembra eccessivo, perché onestamente se fosse stato un discorso a livello di procura è un conto, qui c'era un discorso... No, infatti. Mi sembrava un po' eccessivo. Cioè, volevano comprarti, questa è la realtà. No, comprarmi no, non è in quel periodo... questo hai detto all'inizio. No, ma lo ripeto, tranquillo, non è che avevano paura di me. Preferivano farmi stare zitto perché non sapevano fin dove sarei potuto arrivare. Diciamo che quello che io so, qualunque cosa ho detto, in qualunque contesto, io lo posso provare. Io di quello che ti ho detto adesso, dei 2500 euro, io aspetto domani Fede che dica tu non sei mai venuto in ufficio a parlare di queste cose. Io aspetto Ghidini che dica tu non hai mai telefonato nel mio studio, e io aspetto Milano che mi dica tu non sei mai venuto a parlare di soldi. Una volta che queste tre persone diranno queste cose, ci penserò io a far vedere qualcos'altro. Qualcos'altro cosa? Che Berlusconi con me non vince. Se Berlusconi ha sbagliato, Berlusconi pagherà. E siccome io so che ha sbagliato, io ho pagato nella vita quando ho sbagliato. Anche Corona in galera. Se Berlusconi ha sbagliato, deve pagare. Lui, non governare l'Italia. Lui in che cosa ha sbagliato secondo te? Ha sbagliato che è andato a letto con una ragazza minorenne, con altre ragazze che si prostituivano perché le pagava, e soprattutto ha sbagliato a non dirlo con gli italiani, perché se lui avesse detto sì è tutto vero, ho scopato italiani, io avrei detto hai fatto bene, avrei scopato anch'io il tuo posto. Invece si ha mentito per 4 anni e adesso le deve pagare le conseguenze, e sono una spina nel suo fianco che non mi compra nemmeno con 1 milione di euro. Ma che cos'hai gli altri? Cioè, tu stai dicendo come se dicono che non è vero, sì, che hanno tentato, diciamo, di comprarmi tra virgolette, o io altre cose, che cos'hai di altro? Io ho detto semplicemente, Cruciani, che tutto quello che dico lo posso provare. Con che cosa? No, ma poi lui al di là delle... molto grave. Allora, io le prove in questo caso, scusatemi, con tutto rispetto, non devo darle a voi perché non sono no, lei. No, beh, certo. Ecco, nel momento in cui mi diranno perché lei dice, Chiesa, che è andato a parlare con Emilio Fede le ha detto chiamo Ghidini, ci penso io a quel punto avrò un qualcosa che sicuramente farà scalpore. Quando Ghidini dirà no, Chiesa non mi ha mai chiamato, io avrò qualcosa. Quando diranno io a Milano non ho mai incontrato. Ma anche lei Chiesa ha portato, anche lei ha portato delle ragazze, questo, anche lei ha portato delle ragazze a Berlusconi? Io direttamente ragazze Berlusconi non ne ho portate, ma non perché mi voglio pulire la coscienza, ma perché effettivamente non l'ho fatto. Conosco molte delle ragazze che sono andate tramite l'Elemora. Ma è vero che c'era una gara per portarle? C'era sicuramente una gara, perché entrare nelle simpatie di Berlusconi, Tarantini insegna, c'erano tante agevolazioni. Quindi tra agenti e pseudoagenti c'era la gara a contattare Emilio Fede per riuscire ad avere le ragazze più belle da portare poi a cena. Ma si parla però di cena. Ma chi la vinceva? Chi la vinceva sta gara? Ma diciamo che il re di tutto questo era l'Elemora, ma non è un'offesa, perché ha preso anche dei milioni di euro da Berlusconi. Perché dicevi che si parlava di cena? Perché quando ieri Carlo Rossella diceva io a cena non ho visto nulla, diceva la verità, è quel famoso 20% di verità, perché ci sono due tipi di cene. Ci sono le cene istituzionali, in cui ci sono 20 ragazze, magari con Rossella di turno, ma non succede nulla, e questa è la cena che ci hanno fatto passare ieri. Ma poi ci sono le cene con l'Elemora, Emilio Fede, compagnia belle, le ragazze, che lì non sono le cene che dice Rossella, sono le cene che si va sotto, sono le cene che si spoglia, ci sono i patteggiamenti, c'è una stanza dove ci si mette in un letto, le ragazze passano a turno e si vengono palpate, si fa l'amore. C'è una stanza buia dove il signor X, gli piace stare al buio perché non gli piace farsi vedere, e lui tocca e si diverte. Tutte queste cose me le hanno dette, le oggettine che vengono pagate. Quindi adesso potranno dire Chiesa, noi non confermiamo, ma queste cose a me me le hanno dette. Mi vogliono fare del male, mi vogliono denunciare, che mi denunciano. Quando sarò in tribunale porterò le prove, ma queste cose le so e le dico, e non voglio soldi, lo dico agli italiani. Non voglio notorietà, ho capito la mia vita, però dico la verità. Grazie, punto, grazie a Francesco Chiesa Soprani. Dobbiamo chiudere. Ciao, dobbiamo chiudere. Giovanni da Pisa, velocemente, 30 secondi, Giovanni. Sì, una cosa, io mi domando come, io ho spento subito la trasmissione stasera, come il Sole 24 Ore, infatti lei è qui, possa pagare persone come Giuseppe Cruciani, che ha fatto istigazione al razzismo. Perché? È una persona che ha istigato al razzismo. Perché? E mi domando come una persona toscanaccia, ma è un toscanuccio, come si chiama? Ne parliamo domani, secondo lei io istigo al razzismo. Ne parliamo domani 18:30. Abbraccio a tutti, viviamo e lottiamo insieme a voi. Non mi è molto simpatico. No, posso capire. Sì, è una cosa che non capisco degli italiani, come un uomo del genere può esistere in Italia. Il mio ristorante, preferisco avere le persone in un posto pubblico. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8, lo dica a voce alta.